che nulla brami al mondo, la mia sete smaniosa e i miei silenzi non diventino roccia. Parole ignare assorbite dall'etere invisibile e percettibile. Oro, uomo e la bestia e l'oro, la sua parola l'anima lavò, la sua parola l'anima lavò, l'oro. Never.